got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. When you thinking, damn, what is this? That's us. Make it speak as band when it hits like what? Give it some jams with that West Side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Yeah, something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight so what? Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto. Anche questa sera una storia che parla di identità, di migrazione e di integrazione. Andiamo a Castel Volturno. Io voglio fare il giocatore di basket perché mi sono appassionato a questo sport e il coach ha detto che se continuiamo a allenarci possiamo diventare persone molto importanti nel futuro. Per me siamo tutti uguali, il colore è solo un colore, ma il sangue è sempre uguale, è sempre rosso. Cioè, questi ragazzi se non facessero sport a 18 anni avremmo dei cittadini sicuramente diversi, molto diversi. Allora, siamo con Massimo Antonelli, che allena a Castel Volturno una squadra di under 14 formata da ragazzi nati in Italia ma di nazionalità estera, come esempio di inclusione. Le regole federali non consentono che possano giocare a un campionato ufficiale, ma qualcosa è cambiato con la legge di bilancio. Allora, innanzitutto benvenuto a Massimo Antonelli. Buonasera a tutti quanti voi. C'è una speranza concreta, dicevamo, visto che la legge di bilancio contiene la possibilità di tesseramento annuale e dunque l'iscrizione ai campionati sportivi anche dei minorenni stranieri, anche se non in regola con i permessi di soggiorno, purché abbiano svolto un ciclo scolastico di almeno 4 mesi. Questa è la novità, la norma che è introdotta proprio con il vostro nome, no? Con il nome della squadra, che è Tantan Basket. Ma la cosa ci onora veramente, perché naturalmente noi siamo forse un po' l'esempio limite, abbiamo tutti i ragazzi, lavoriamo in un territorio molto particolare, difficilissimo, dove vivono tantissimi, insomma, comunità africani numerosissimi, quasi il 50% dei presenti cittadini poi italiani. In questa comunità naturalmente sono tanti ragazzi che non facevano sport, io li ho coinvolti in questa attività. Tant'è vero che abbiamo una squadra, proprio questa Under 14, che è formata da tutti elementi, ragazzi nati in Italia, ma figli di cittadini africani, e quindi avevano proprio problemi a giocare le partite perché la federazione non lo permette. Con questo regolamento, diciamo un po' obsoleto a mio avviso, è quello che limita 2 giocatori per squadra, come stranieri naturalmente. La cosa è andata così, no? Lei ha chiesto alla FIP, la Federazione Italiana di Pallacanestro, di farvi giocare, di far giocare i ragazzi, e si è trovato davanti a un diniego. Diciamo che è stato fatto un grandissimo appello pubblico, no? C'è stato un giornalista molto sensibile, Vincenzo Ammariato, ha riportato questa nostra realtà, che ha fatto subito come un eco incredibile. Piano piano c'è stata tutta un'onda mediatica che ha parlato che a favore di questi ragazzi che dovevano giocare, che, insomma, quindi hanno spinto e hanno... Tantissimi attori, registi, gente dello spettacolo, della cultura si sono fatti fotografare con questo cartello "Io sto con Tantan", e in più hanno aderito tantissima gente sui social condividendo naturalmente questa notizia. Poi è arrivato anche un deputato Ansaldi, che ha fatto un'interrogazione parlamentare prima, e poi è addirittura interpellato il CIO, cioè il Comitato Internazionale Olimpico, dicendo questa è una realtà particolare dove bisogna far giocare eventualmente in deroga i ragazzi. Quindi la notizia è andata in forma non ufficiale alla federazione e naturalmente al CONI, i quali erano a coscienza naturalmente di tutto, insomma. Quindi non è stata fatta una richiesta proprio a tempi recenti di una giocare in deroga, ma chiedevamo da parte loro il loro pensiero favorevole, che sembra che adesso naturalmente, vista anche l'indirizzo un po' del Consiglio dei Ministri, sembra che ci sia un'opinione diversa da quello che era un po' di qualche giorno fa. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. We got a little time left, let's live. Blow it up, we just west side kids. Put it to rest and address that biz. That is us, give me cuffs, I arrest that riff. Everybody get up, get up. you wanna get down. When they ask, say up, we gon' run this town. We gon' run this town. Run, run, run this town. We gon' run this town. We gon' run this town. Voi avete aperto anche una pagina per il crowdfunding. Per cosa esattamente? Sì, stiamo facendo un'avventura nostra, è una piccola società che lavora totalmente è proprio di volontariato, dove tutti quanti noi stiamo facendo dei grandi sacrifici, perché l'attività che proponiamo è totalmente gratuita. Questi ragazzi non potevano fare sport fino a poco tempo fa perché i propri genitori non avevano quei soldi per permettersi di pagare le rette mensili alle vari club, che oltretutto sono anche molto economici in zone che fanno anche un egregio lavoro, però questi ragazzi non potevano permetterselo. C'è questa raccolta fondi, proprio che è sto crowdfunding, come si chiama in inglese, che ci dà un po' una mano. Già a tempo fa ne aprimo uno perché dovevamo ristrutturare il palazzetto che era chiuso per dieci anni, abbiamo rifatto il parquet, insomma, dei caldaie, insomma, sta avendo una spesa enorme. E abbiamo avuto già 249 sostenitori per comunque che hanno contribuito a questa raccolta fondi per il palazzetto. Adesso ne abbiamo aperto un altro perché abbiamo grossi problemi. Gli orari sono cambiati, i ragazzi salgono anche tardi, escono dalle 8:30 a settimana di giorno, alle 9:30 dalla palestra, e siccome non hanno i genitori, nessun ragazzo viene accompagnato. Questa è la cosa bella a tutti questi ragazzi, che comunque fanno grandissimi sacrifici, la passione li porta a fare chilometri e chilometri a piedi. E di giorno una cosa, ma farli andare verso le 10 di sera sulla Domiziana, ragazzi 13 anni, 14 anni, sinceramente è molto antipatico. Stiamo provvedendo per fornire naturalmente questo trasporto dei ragazzi in sicurezza. Non ce la siamo sentiti, insomma, abbiamo affrontato ulteriori spese che dobbiamo affrontare comprando. Adesso fittiamo un pulmino, però dopo dobbiamo comprarlo per anche usato naturalmente per portare questi ragazzi noi direttamente nelle loro case. E allora questa raccolta fondi è proprio per questa causa qui, per trasportare in sicurezza i ragazzi, rientro a casa a notte tarda questi ragazzi, in modo che insomma le famiglie siano tutte tranquille e soprattutto noi insomma sentiamo più tranquilli, accompagnati, senza che loro aspettino il pullman alle 10 di sera, che spesso non passa. Chi volesse aderire a questa raccolta fondi cosa deve fare? C'è una piattaforma, così si chiama, no? Di crowdfunding, raccolta fondi, si chiama buonacausa.org, e su questo sito c'è la possibilità, insomma, si accede, poi viene guidato per contribuire anche con piccole somme, quello che è, noi fa solo molto piacere. Devo dire che le persone che hanno aderito precedentemente, che stanno già aderendo adesso, sono persone che le sentiamo molto vicine, diventano tifosi incredibili della nostra associazione. Ci hanno sempre detto e ci hanno dato forza, sostegno per andare avanti in questa battaglia anche di diritti, che noi diciamo diritti sociali, insomma, abbiamo fa un po' come dei padri di famiglia per questi ragazzi, insomma, abbiamo sentito proprio come nostra questa cosa, l'abbiamo fatta, insomma, abbiamo lottato, insomma, credo che a quanto prima riusciremo ad avere. Non solo noi, ma tutti i cittadini che nascono in Italia o che vivono in Italia, di praticare lo sport, minorenni di praticare lo sport, come tutti i ragazzi italiani, che è una vittoria, una bellissima vittoria, come quella di vincere uno scudetto. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare con voi di basket e di integrazione tra pochissimo. Sono Nicoletta Carbone e ho una proposta da farvi. Venite con me a caccia di bufale? Allora dai, segnate in agenda La Bufala in Tavola, Radio 24, ore 12, ogni domenica con Nicoletta. Perché se è vero che siamo quello che mangiamo, non vogliamo mangiare bugie, fake news, leggende o mode, ma solo quello che ci piace, è buono e ci fa stare bene. Allora io vi aspetto, mi raccomando, a mezzogiorno, alla domenica su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen a type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back. Senta, come ci è arrivato lei ad allenare questi ragazzi? Lei è molisano di nascita, laureato in architettura a Firenze, scudettato con la Virtus Bologna, insomma è un giocatore affermato, conosciuto, poi è andato in Campania un po' d'anni fa, no? E come è arrivato ad allenare questi giovani? Io ho chiuso la carriera proprio qui a Napoli, insomma, sono stato 5 anni, ero proprio capitano di questa squadra, anche negli anni d'oro dove il basket era veramente molto molto seguito. Sono rimasto qua fin dalla carriera, sono rimasto in zona, un sacco di amici, e proprio con alcuni di questi amici, tutti ex giocatori, come Piero Dorazzo che ha giocato con me col Napoli Basket, appena sono arrivato qui a Napoli, un altro è Guglielmo Ciero, un altro ex giocatore che è proprio quello della zona, che vive a Castelvolturno, ci ha fatto sapere lui, diciamo che è una colonna di questa nostra società, insomma, Guglielmo Ciero, ci ha fatto sapere che c'era un palazzetto chiuso a Castelvolturno. La voglia di fare associazionismo ci ha condotti proprio a Castelvolturno perché ci vuole uno spazio dove poter fare attività. Poi quando abbiamo cominciato a vedere, insomma, ad avvicinare i ragazzi, abbiamo visto che c'era questa grandissima comunità africana che poi non poteva permettersi, insomma, di pagare niente. Allora è diventato un progetto proprio un po' rivolto a loro, che secondo me è la comunità più povera che è qui in loco, con una grandissima voglia di fare sport. Ecco, insomma, abbiamo fatto proprio questa operazione che da un discorso sportivo, una situazione sportiva, una situazione sportiva ma anche sociale. Stiamo crescendo, danno una mano a crescere questi ragazzi, sia sotto l'aspetto proprio psicofisico, perché sono ragazzi che hanno proprio bisogno di fare sport, proprio perché hanno un po' un senso, bisogno di essere più disciplinati, hanno un basso grado di attenzione. Ma stiamo intervenendo molto anche sotto l'aspetto non solo normalmente fisico e gioioso del gioco, ma anche sotto l'aspetto psichico. Giocare significa anche incanalare la loro vivacità, diciamo, no? Hanno qualcosa di particolare, hanno energia in eccesso, ossia, insomma, che non ho mai trovato ragazzi che dopo 3 ore, 4 ore di allenamento mi dicono: ma andiamo avanti, facciamo ancora, giochiamo ancora. Si sono appassionati a dei livelli che è veramente molto emozionante. Quello che io dico, loro si donano tantissimo, noi stiamo cercando di ripagare Questa loro dedizione, insomma, dandogli proprio tutto quello che possiamo dare, anche è vero che è uno di questi casi qua, è proprio quello della storia, di fargli ritornare almeno comodi su un pulmino senza dover aspettare magari un'ora alle 10 di sera, un pulmino che magari non passa neanche sotto la pioggia. Sono una quarantina, no, questi ragazzi, sì. Tra maschi ci sono anche delle ragazze? Sì, ci sono, al momento solo 2 ragazze. La fascia d'età è fra i 10 e i 16 anni, no? Sì, questa sia la fase a cui adesso stiamo rivolgendo. E ci racconta qualcosa di loro, qualche storia particolare, qualche faccia che noi non possiamo vedere alla radio, ma che lei ci aiuterà a vedere. No, guardi, le dico già una cosa che è nata anche domenica alla partita. Ci sono due ragazzi, King e Victor, sono 2 fratelli, a cui loro mancano credo 2,5 gradi, 3 gradi, giocano senza occhiali. Sono senza occhiali, glielo ho promesso già che li avrei comprati io. Per un anno gioco con handicap, vedendo la palla che quando gli arriva è un po' un terrore per la ricezione, però poi la prendo, il gioco si diverte. Forse è anche un modo per, in un contesto come Castelvolturno, per trovare uno scopo, una ragione, una passione. È proprio questo, è diventata una grande passione. È veramente durissimo togliere lo sport adesso a questi ragazzi. È anche una cosa che io sinceramente non so cosa succederebbe, perché veramente è una valvola di sfogo. È un momento, è un sogno, è un momento di incontro dove loro sfogano una vivacità che veramente è tanta, un'energia non indifferente. Se non facessero sport questi ragazzi, io veramente temerei, insomma, per la società, perché non so se solo la scuola e la famiglia può reggere da soli nella formazione di questo ragazzo. Lo sport è un altro pilastro fondamentale per dare formazione, creare dei ragazzi, che consegnare dei maggiorenni a 18 anni sicuramente migliori. Senza lo sport, io che da essere vero, da disciplina, bisogna aspettare delle regole ferree, io sono in continuazione a punire dei ragazzi. Ieri, vista questa notizia, ho dato un'amnistia a due ragazzi che hanno litigato, che hanno sospesi per un mese, mai con da me, ma dai, fammi riprendere. Veniva ogni giorno, nonostante non potesse allenarsi, a vedere veramente dei compagni. Ho detto amnistia, insomma, oggi riprendete sia tu che il miracolo, riprendete a fare gli allenamenti, perché ma di queste scene, insomma, di allontanamento, eccetera, devo fare utilizzare spesso, insomma, ecco, anche un po' punirli sotto l'aspetto disciplinare, per dare un esempio. Le cose stanno cambiando, non meglio, in modo netto, nonostante ancora sia, capisco che c'è ancora molto, tanto da fare. When you thinking, damn, what is this? That's us. Make it speak as bam when it hits like what? Give it some jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Jam something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party so tonight so what? Come on everybody put the drink down bounce. Ma io penso che sia un diritto allo sport. Qualsiasi ragazzo che si trova in Italia vuole fare sport, lo bisogna agevolarlo, ecco, non è chiaro. È stata una battaglia che ci rende, se passerà, ci renderà doppiamente felici, perché non è solo tant'anno ad avvantaggiarsene. I miei ragazzi che sono, io sono fiero, insomma, di allenarvi, per come sono, per come si pongono, ma per tutti i cittadini che sono nati in Italia. Pensi che in Italia sono 800.000 minorenni nati in Italia di figli di genitori stranieri. Non vorrei, ma io già lo so che sono tanti casi come il nostro, che ci sono in tante realtà d'Italia, che magari hanno taciuto questa condizione, l'abbiamo solamente messa un po' alla luce così, un po' di tutti, e per fortuna, sono state persone che ci hanno aiutato a renderla molto così conosciuta, i video ci hanno seguito. Hanno fatto sì che hanno addirittura, insomma, siamo andati su una discussione di un consiglio di ministri di una legge di bilancio, cioè una cosa che sembra veramente leggenda, insomma, una cosa che non è una comunità, cioè sentire la norma salva tant'andasse, sembra qualcosa, boh, insomma, ancora ci devo credere a quello che è successo. With the pedal to the metal, I'm a rebel when I'm running this track. Check the memo, check my ammo, always get it live. Jay is on a slide, I got something on the side. No lie, I'll be running when I rise. Always gonna fly, keep it bumping from the sky. If you wanna spaz on a beat, go do it. If you've been asleep, show me how I blew it. Y'all better be ready when that hook come round. If you're tryna get up, then you better get down. Yeah, yeah, yeah. If you're tryna get up, then you better get down. Everybody get up, if you wanna get down. When they ask, say yeah. Sono un sognatore, io credo molto nello spirito, nella relazione, nelle relazioni umane. Cioè, quando mi si parla di due soli, ho sempre pensato per dire come si fa a pensare a un ragazzo che cresce, che nasce in Italia, cresce anche un compagno di banco, insomma, per dire con i compagni di banco che sono italiani, eccetera, che ci siano tante differenziazioni. Poi va bene che già va bene che a 18 anni possano richiedere la cittadinanza, ma se uno la vuole richiedere anche prima, la cittadinanza per me sia una cosa di diritto. Come sono i rapporti con i genitori di questi ragazzi? Guardi, tutti si lamentano quando l'associazionismo sportivo oggi si lamenta perché purtroppo i genitori incidono moltissimo sulle prestazioni dei ragazzi, perché li seguono in modo particolare, da bordo campo, offendono gli avversari, magari si lamentano con l'allenatore che giocano poco. Io questo non ce l'ho, perché nessun genitore accompagna mai un ragazzo. Hanno problemi seri, devono andare a trovare lavoro, vedono i figli la mattina quando vanno a scuola e li rivedono spesso la sera, perché i figli infatti tante volte vengono da me e non hanno mangiato, delle vere s'abbuffano di patatine, di cose, eccetera, insomma, perché magari c'è un euro che comprarsi patatine, si abbuffano di patatine, e poi la sera immagino che si faranno le grandi abbuffate. Guai quando arriva qualcuno con panino, si avvendono tutti quanti, gli altri, tutto quel panino, morso, cioè, sono cose che veramente fanno un po', insomma. Quindi io le famiglie non le conosco molto, sono solo queste che ogni tanto mi chiamano quando il figlio non rientra in un orario stabilito, sono molto preoccupati, dove unirsi, dove miracolo, cioè mi chiamano sempre per dire Massimo, allora dai, questo video se ti abbiamo consegnato, insomma, però adesso perché non è rientrato? Non li conosco in modo così. Alcuni sono. Diciamo che per un allenatore è una fortuna conoscere meno i genitori. Ah, beh, sotto l'aspetto tecnico è una fortuna, sotto l'aspetto organizzativo, diciamo, fare una trasferta, spesso si chiede ai genitori, si dai una mano, vai prendi, certo. Andiamo. Insomma, ci sono i pro e i contro, devo dire. Senta, ma un'ultima domanda: da più di 20 anni lei si dedica a tempo pieno all'insegnamento dei fondamenti proprio del basket, e anche tramite un metodo che lei stesso ha creato, no? Il Music Basketball Method. Oggi è conosciuto grazie a questo metodo un po' in Italia, ma anche un po' in gran parte del mondo. Ci spiega in cosa consiste? Sì, il Music Basketball Method è proprio un metodo molto efficace, anche molto divertente, che utilizza la musica per insegnare i fondamentali della pallacanestro. La musica agisce proprio a supporto del sistema tradizionale, naturalmente, nulla toglie, solo aggiunge, insomma. Come dicevo prima, agisce a livello motivazionale, dove spesso non arriva la parola, arriva la musica, il ritmo, la melodia. Grazie a Massimo Antonelli per essere stato con noi stasera. Indovina chi viene a cena. Grazie e in bocca al lupo per la vostra squadra. Va bene, grazie a voi tutti. È tutto per questa puntata di Indovina chi viene a cena. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.